Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Sono le 17:07 fra due secondi. Eccoci qua. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani e benvenuti a Focus Economia per il racconto della giornata economico-finanziaria. Una giornata che oggi si è caratterizzata soprattutto per la grande attenzione che abbiamo dato ai mercati finanziari, perché naturalmente, come sempre si fa in questo periodo dell'anno, si tracciano i bilanci, si cerca di riguardarsi un po' indietro. Sicuramente da molti punti di vista questo è un anno che vorremmo un po' archiviare tutti quanti, perché è stato un anno che per molte famiglie è stato all'insegna di grandi sacrifici, di perdite di posti di lavoro, di aumento di tasse su tutti i fronti. È stato l'anno dell'IMU, è stato l'anno appunto della riforma del mercato del lavoro, della riforma delle pensioni e quanto altro. È stato un anno invece piuttosto felice, e sembrerà paradossale, ma come si sa la borsa è sempre cinica, molto felice dal punto di vista del mercato azionario. Proprio oggi la borsa italiana ha diramato la sua review appunto di fine anno, e il bilancio che emerge è positivo, perché il FTSE MIB segna un rialzo dell'8% circa dall'inizio appunto di gennaio. Tra l'altro un bilancio l'abbiamo stilato oggi anche a Salvadanaio, e anche se la nostra rimane una borsa piuttosto piccola, ha comunque delle belle storie da raccontare, come quella dell'unica IPO, dell'unico collocamento in borsa che è avvenuto quest'anno, quello della società di moda di Brunello Cucinelli, che ha raccolto tanto sul mercato. È stato un collocamento di grande successo, e però è stata insomma solo questa la storia di collocamento di borsa di quest'anno appunto che Piazza Affari può raccontare. Faremo un bilancio dunque di quest'anno sui mercati, con una vivacità molto intensa per quello che riguarda il mercato obbligazionario, soprattutto, racconta Borsa Italiana, in concomitanza con le tre grandi operazioni di emissione del noto BTP Italia, appunto questo titolo con scadenza a 4 anni che il Tesoro ha collocato sul mercato destinandolo soprattutto agli investitori domestici, e in concomitanza con la terza emissione in ottobre, il MOT, il segmento dei titoli di Stato della Borsa Italiana, ha segnato appunto il numero più alto di contrattazioni in un'unica giornata. Poi vi racconteremo anche questo. Ma l'anno si sta chiudendo anche all'insegna dell'attesa sul fiscal cliff americano, il precipizio fiscale che mette a rischio la crescita degli Stati Uniti e quindi anche la ripresa mondiale. Il countdown, il conto alla rovescia degli investitori a fine anno, non è tanto dunque quello per la chiusura del 2012 e l'arrivo del 2013, quanto quello per l'accordo fra democratici e repubblicani sulla riduzione del deficit che eviti la trappola mortale per l'economia, dei tagli automatici alla spesa pubblica per 1.200 miliardi di dollari in 10 anni e il contestuale aumento delle tasse di circa il 2%. Questo tema peraltro ha condizionato negativamente i mercati nell'ultima settimana natalizia di contrattazioni del 2012, comunque mercati che, vi ribadisco, incassano un 2012 positivo e in rialzo, con l'Europa che nel complesso ha fatto meglio di Stati Uniti ed Asia nonostante la crisi dei debiti sovrani. Andiamo a vedere rapidamente, prima di darvi come sempre facciamo a quest'ora le notizie in breve, come si stanno comportando le borse, cominciando proprio con Wall Street, dove il Dow Jones segna un ribasso di 0.5 percentuale. Meno preoccupante la seduta del Nasdaq, del listino dei titoli ad alto valore tecnologico, meno 0.23%. Lo Standard & Poor's 500 in ribasso anche in questo caso di 0.5 punto. L'Europa, Parigi, meno 1.23%. Oggi da Parigi è arrivato il dato sulla revisione del prodotto interno lordo del terzo trimestre, revisione a ribasso e quindi penalizzazione di borsa. Francoforte, meno 0.57%. Londra, meno 0.22%. E Milano, meno 0.54%. Euro su dollaro a 1.3223, lo spread fra BTP e Bund stamattina è ritornato sui 325 punti base, in concomitanza con un'asta di titoli di Stato del Tesoro italiano che ha collocato BTP a 5 e 10 anni. Fra un po' vi racconteremo anche com'è andata. Questo è il punto di borsa, adesso le altre notizie in breve. Come Cominciamo come sempre con uno sguardo sul fronte commodities, materie prime in rialzo. L'oro questa mattina in Asia fino a 1622,80 dollari l'oncia, mentre il petrolio a New York ha aperto in rialzo a 91,02 dollari al barile. Allora, grazie a oltre 2.000 pompe bianche, i cosiddetti distributori indipendenti, e 86 punti vendita nella grande distribuzione organizzata, i prezzi dei carburanti sono più bassi, fino a 13 centesimi di euro al litro, rispetto agli impianti delle compagnie petrolifere dove c'è concorrenza. Così un'indagine antitrust che chiede, questo è l'esito di un'indagine appunto condotta dall'autorità garante del mercato, che chiede di rafforzare le potenzialità dei nuovi entranti sul mercato, in grado così di rompere l'assetto oligopolistico. Andiamo ad alcune notizie dagli Stati Uniti. Oggi l'indice PMI di Chicago è salito a dicembre a 51,6 punti dai 50,4 di novembre, rimanendo così nella zona di espansione economica. La componente dei nuovi ordini è salita a 54 punti, mentre quella dell'occupazione è calata a 45,9. C'è un buon dato oggi anche per quello che riguarda il mercato immobiliare. In novembre sono cresciuti dell'1,7% i compromessi per l'acquisto di case americane. Dalla Spagna, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha chiesto comprensione e solidarietà per l'anno difficile che sta attraversando il paese. Ha annunciato che anche il 2013 si presenterà duro, soprattutto nel primo semestre. Il capo del governo spagnolo non prevede però al momento di chiedere aiuti alla Banca Centrale Europea, ma non esclude che questo possa avvenire nel futuro. Non prevediamo di farlo, ma non lo escludiamo neanche per il futuro, per l'appunto, ha ribadito in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri di quest'anno, riferendosi agli eventuali aiuti al paese, precisando: se la Spagna e il suo governo lo riterranno necessario, non dubitate, lo faremo. Da un paese in difficoltà ad un altro in grandissima difficoltà, le esigenze finanziarie per la ricapitalizzazione delle banche greche ammontano, secondo la Banca Centrale di Grecia, a 40,5 miliardi di euro, dei quali 27,5 andranno per la ricapitalizzazione dei quattro maggiori istituti di credito ellenici. Si tratta di una somma inferiore a quella prevista per l'intera operazione, secondo cui, in base ad una precedente stima, sarebbero stati necessari 50 miliardi. Per il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble, l'errore più grande da lui commesso nell'affrontare la crisi europea del debito è stato l'aver sottovalutato la volontà riformatrice del premier greco Antonis Samaras. Ho cambiato il mio giudizio sul primo ministro greco, ha confidato in un'intervista al Bild, da quando mi sono reso conto del coraggio e della risolutezza con cui sta portando avanti le riforme nel suo paese. Vi anticipavo prima il tesoro italiano, andiamo alle notizie italiane, ha venduto oggi quasi 6 miliardi di euro di BTP a 5-10 anni, poco meno del target massimo di 6 miliardi che era stato appunto individuato inizialmente. Esattamente, il tesoro ha venduto 5 miliardi 880 milioni di euro di BTP. È stato registrato un lieve rialzo dei tassi. Il titolo a 5 anni è spuntato sul mercato il 3,26% dal 3,23% dell'asta di novembre. Il titolo a 10 anni invece ha spuntato sul mercato un tasso al 4,48% dal 4,45% di un mese fa. In concomitanza con questa asta, questa mattina lo spread, che aveva aperto sui 325 punti base, è poi sceso leggermente a 322. Se la crisi ha colpito duro ovunque, c'è un'area del paese in cui ha ferito e purtroppo continuerà a ferire anche il prossimo anno di più: il Mezzogiorno. Lo scrive Unioncamere in un comunicato sugli scenari 2013, secondo cui il divario fra il Mezzogiorno e il resto d'Italia è destinato a crescere ulteriormente, a fronte di un calo medio dell'1% atteso per il PIL nazionale. Nelle regioni meridionali Unioncamere si attende un meno 1,7%. Calo delle nuove pensioni nei primi 11 mesi del 2012. Gli assegni liquidati dall'INPS sono stati 267.732, con un calo del 18,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il dato è l'effetto della finestra mobile e dello scalino scattati nel 2011, mentre la riforma Fornero avrà effetti a partire dal prossimo anno. Continua intanto con successo la lotta all'evasione contributiva da parte dell'INPS. Nei primi 11 mesi di quest'anno è sempre stato accertato più di 1 miliardo di euro di contributi non versati nel corso di oltre 73.000 ispezioni, che hanno portato alla scoperta di 61.000 lavoratori in nero. Dal 1 gennaio scattano gli aumenti intanto del 3% per adeguare le pensioni al costo della vita, ma anche il prossimo anno la rivalutazione non sarà valida per le pensioni superiori 3 volte la soglia minima. Lo ricorda la SPI-CGIL, il sindacato pensionati, aderente appunto al più grande sindacato italiano, affermando che il blocco della rivalutazione riguarda 6 milioni di pensionati. Aumenti che lasciano fuori dunque molti pensionati, come racconta Carla Cantone, segretario generale della SPI-CGIL, intervistata da Piera Ceci. Lasciano fuori almeno 10 milioni di persone, cioè quelli che hanno una pensione oltre i 1.400 euro lordi. Però la fascia che va da 1.400 lorde a 2.400 lorde sono lavoratori e lavoratrici che hanno versato oltre i 40 anni di contributi in continuazione ed hanno già perso, prima con le decisioni di Berlusconi, poi con il governo Monti, hanno già perso in un anno mediamente 400 euro all'anno che si trascineranno per tutta la vita, e questa è una questione che non può continuare ad essere così. Quindi cosa chiedete? Che venga rimosso il blocco almeno fino a 8 volte il minimo, che vuol dire almeno fino a 3.000 euro lorde. Poi oltre 3.000 euro lorde si tratta di discutere se per caso conviene per un certo periodo mettere una patrimoniale, ma che non può riguardare solo le pensioni, deve riguardare tutti i redditi, se vogliamo far cassa e fare equità. Ancora un paio di notizie prima del nostro primo approfondimento di oggi. In Italia oltre 3 milioni di imprese, pari al 70% del totale, soffrono di problemi di liquidità dovuti al ritardo dei pagamenti. Le perdite per i mancati incassi arrivano a toccare i 40 miliardi e mezzo di euro l'anno. Le cause di questo malcostume tutto italiano, segnala la CGA di Mestre, vanno ricercate nei tempi medi di pagamento effettivi che intercorrono nelle transazioni commerciali con le altre imprese e con la pubblica amministrazione. L'ultima notizia, raddoppiano, questo lo dicevamo anche ieri con gli esperti della Coldiretti, i brindisi Made in Italy in Francia con lo spumante italiano, che fa segnare un aumento del 91% delle esportazioni nel paese transalpino e conferma il primato sulle tavole mondiali. E quanto emerge da un'analisi appunto della Coldiretti che ieri vi abbiamo anticipato in occasione delle festività di Capodanno, sulla base dei dati relativi al commercio estero di spumante italiano nel mondo nei primi 9 mesi di quest'anno. Un successo che viene ulteriormente confermato dal boom degli acquisti di bollicine italiane nel Regno Unito, più 33%, che diventa il terzo importatore dopo Stati Uniti e Germania. Fra i nuovi mercati va sottolineato l'aumento delle esportazioni in Canada, più 35%, e in Giappone, più 31%. Andiamo adesso al primo approfondimento di oggi. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a Abbiamo tutti. Vivacizzato la giornata, ti piace questa colonna sonora con cui cerchiamo anche noi di animare un po' le così, notizie che dobbiamo, nostro malgrado, dare ogni giorno. Oggi ne abbiamo anche di buone. Non senti bene con le cuffie? No, sei a posto, sento, adesso sì. Ecco qua, perché dovevamo anche verificare appunto che fosse tutto a posto per quello che riguarda il nostro ospite. Allora, abbiamo chiamato Moria sia per commentare l'ultima asta dell'anno del Tesoro italiano, anche in questo caso è andata bene questa mattina, anche in questo caso, però esattamente come è successo per una delle due di ieri, tassi in leggerissimo rialzo di nuovo, niente di particolarmente preoccupante, però un piccolissimo segnale, lo abbiamo visto e cercheremo di capire perché si è verificato questo. E poi soprattutto oggi Borsa Italiana ha diramato il suo bilancio di fine anno su tutto quello che è successo a Piazza Affari in questo 2012, che è stato in certi momenti anche molto difficile, lo è stato di più forse un anno fa. Però anche quest'anno abbiamo avuto appunto degli alti e bassi. Il mercato italiano, per quello che riguarda la borsa, aveva di nuovo ritoccato dei minimi in maggio, poi si è ripreso notevolmente con questo scatto finale di dicembre che porta la borsa italiana a chiudere l'anno. Questo però va segnalato, è il bilancio alla ultima seduta prima di Natale. Il bilancio della chiusura di Piazza Affari è di un più 8,25% per il FTSE MIB, più 8,74% per il FTSE All Share. Queste sono prestazioni che non considerano una seduta seduta di ieri e quella di oggi, per cui credo che sia anche un po' più ridotto questa percentuale. Detto questo, Moria, vorrei partire con te proprio con l'esito dell'asta di questa mattina. Il Tesoro italiano ha collocato appunto BOT a 5 e 10 anni senza problemi, con un importo leggermente inferiore rispetto a quello che così si era preventivato, però queste sono scelte che mediamente in ogni asta anche si fanno in relazione anche ai tassi che si verificano, quelli che vengono appunto chiesti dal mercato. Magari il Tesoro dice: ma senti che c'è, colloco un po' meno, così pago sì, un po' meno. Sì, questa è una politica del Tesoro adottata da qualche anno, non dà più un importo fisso, secco, ma dà una forchetta di importo da collocare, proprio perché in base alla domanda che arriva il Tesoro screma le domande peggiori degli investitori e colloca i titoli Stato in base alla propria convenienza, per cui è un po' come il taglio della mozzarella, si butta via la parte negativa, diciamo le domande più speculative, quelle che imporrebbero un tasso più alto al Tesoro, quindi il Tesoro taglia l'offerta in base proprio alla quantità di domande da parte degli investitori che secondo il Tesoro sono ricevibili, sono corrette e non imporrebbero tassi troppo alti allo Stato italiano. Però insomma ecco, è andata bene, 5 questo miliardi succede sempre, no? 880 milioni di euro per BTP a 5 10 anni. Chiaramente noi con grande ossessione osserviamo soprattutto quello che succede sulle BTP a 10 anni, che è quello che confrontiamo sempre al Bund tedesco, e questa differenza ci dà anche questo spread, che è questo grande termometro anche della crisi, ormai l'abbiamo adottato anche per questo. Abbiamo avuto appunto questi rendimenti, leggero rialzo. Che cosa hanno detto gli operatori? C'è da ricominciare a preoccuparsi, no? Perché siamo ben lontani da quella grossa preoccupazione con cui abbiamo passato le festività l'anno scorso. Non c'è da preoccuparsi, nel senso che il rialzo dei rendimenti leggerissimo che c'è stato oggi, tenete conto che l'asta, quando si dice rialzo dei rendimenti, si intende rispetto all'asta del mese scorso, quindi nell'ultimo mese. Questo riflette il movimento di mercato nell'ultimo mese, che ha avuto rendimenti prima più in rialzo, poi sono un po' ricalate, adesso stanno vagando un po' sopra e sotto i 300 punti base, quindi l'asta fotografa il momento dei tassi di oggi rispetto al momento dei tassi di un mese fa, e sono anche quelli di mercato leggermente più alti, quindi questo è assolutamente normale. Guardando al futuro, anzi, gli analisti si aspettano un calo dei rendimenti, addirittura c'è per esempio Unicredito che stima che nel 2013 lo spread medio tra BTP e Bund sarà di 280 punti base, considerando che lo spread medio nel 2012 è stato di 395 punti base, significa più di 100 punti base di meno, quindi con un consistente risparmio per quanto riguarda la spesa per interessi del Tesoro italiano. Ovviamente bisogna vedere se il mercato andrà in questi termini, perché ci sono una serie di incognite con cui si apre il 2013 che sono importanti, cominciando dalla campagna elettorale italiana, c'è anche quella tedesca naturalmente, quella... però messe insieme tutte e due qua la miscela è esplosiva, soprattutto se in Italia non si arrivasse a un Parlamento governabile dopo le elezioni. Questo è il grande spauracchio che spaventa i mercati, ma dal mio punto di vista il rischio maggiore, l'incertezza maggiore arriva dalla Spagna. La Spagna si trova in una crisi economica forte, ma soprattutto una crisi di bilancio pubblico forte. Il debito pubblico in Spagna è esploso negli ultimi anni, non dà segnali di stabilizzazione, continua a aumentare, il deficit è molto maggiore rispetto agli obiettivi che ogni volta devono riaggiornare al rialzo. C'è il problema delle banche che lo Stato deve salvare. Adesso si sta, ovviamente, il salvataggio sarà diretto dall'Unione Europea alle banche spagnole senza gravare sul bilancio statale, ma per ora ancora non è così. E infatti c'è, lo sentivi problema... anche nelle notizie di prima, comunque il governo si ostina ancora a procrastinare questa richiesta di aiuti. Anche questo è un altro elemento di grande incertezza. Sì, lì si parla dello scudo antispread, quello di Mario Draghi. Sì, il motivo per cui procrastinano gli aiuti, probabilmente, a parte la classica melina politica che nessuno Stato si vuole mai inginocchiare, questo da un lato giustamente, a chiedere aiuti all'Unione Europea, ma credo ci sia anche un motivo più tecnico, perché quando vengono dati gli aiuti a uno Stato, la condizione è che lo Stato poi rispetti gli impegni presi. Il problema è che se alla Spagna venissero imposti gli stessi obiettivi di deficit e di debito che sono stati imposti nelle ultime, appunto, che sono gli attuali target, gli attuali obiettivi della Spagna, la Spagna sa benissimo che quegli obiettivi non li rispetterà mai. Per cui il terrore della Spagna è che di chiedere gli aiuti, di cristallizzare gli obiettivi che sono stati fissati nei mesi scorsi, che sono irraggiungibili, e quindi a quel punto di entrare in un vicolo cieco, perché ricordo che questo piano di acquisti, questo piano di aiuto della Banca Centrale Europea che acquisterà titoli Stato a breve scadenza, si interromperebbe qualora lo Stato che chiede gli aiuti non rispetta gli obiettivi. Allora il problema è questo, che la Spagna sa già che gli obiettivi attualmente stabiliti sono irrealizzabili, per cui sa benissimo che non potrebbe rispettarli. Allora io credo che stiano cercando di negoziare nuovi obiettivi per l'anno prossimo per renderli un po' più realistici. Io credo che uno dei motivi per cui ancora la Spagna non ha fatto questa richiesta è proprio questo, perché se si cristallizzassero gli attuali obiettivi di deficit che sono stati imposti alla Spagna nei mesi scorsi con i precedenti, col fiscal compact, o comunque nei mesi passati, la Spagna si troverebbe a sforarli praticamente automaticamente, e questo sarebbe un grave boomerang, perché a quel punto la BCE dovrebbe smettere di comprare titoli di Stato spagnoli e questo creerebbe un grande panico sul mercato. Quindi probabilmente un motivo dell'impasse è anche questo, oltre alla classica, diciamo così, melina politica che... Certo, allora intanto l'attenzione generale in questi giorni dalla Spagna è stata distolta, perché se la sta meritando tutta l'America sulla questione del fiscal cliff, tema sul quale torneremo al termine della trasmissione con un altro collega del Sole 24 Ore, con Vittorio Darold, per capire a che punto siamo. Adesso però vorrei ritornare un attimo sul mercato dei titoli di Stato italiani, che è stato decisamente vivace quest'anno, e anche Borsa Italiana lo racconta come il MOT, il mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato appunto italiani, gestito da Borsa Italiana, abbia registrato quest'anno il suo nuovo massimo storico per un numero di contratti scambiati 6.300.000, più 36,4% rispetto al 2011. Allora, un contributo decisivo a questo andamento, a parte gli scambi febbrili sui titoli di Stato a noi più noti, perché chiaramente ci sono stati dei momenti in cui c'erano delle grandi uscite, per cui è chiaro che il mercato è stato molto movimentato anche per questo, ma c'è stato il collocamento, lo ricorderete, delle tre tranche di BTP Italia. Soprattutto il terzo collocamento, quello del 18 ottobre, è stato quello che ha permesso di stabilire a Borsa Italiana un nuovo record assoluto per scambi in una singola seduta sui mercati obbligazionari appunto di Borsa Italiana, oltre 90.000 contratti complessivi. E allora qua c'è la grande domanda, siccome la signora Cannata, Maria Cannata, che è la signora che siede sopra ai 2.000 miliardi appunto di debito pubblico italiano, purtroppo ci siamo seduti tutti, ci siamo seduti un po' tutti, lei sicuramente sta al trono sopra questa montagna appunto di debito, ha già fatto capire che dovrà riorganizzare le uscite del tesoro il prossimo anno, in modo tale, lo diceva anche Isabella Bufacchi stamattina sul Sole 24 Ore, da allungare progressivamente la durata del debito italiano. La tua sensazione è che potrà tornare sul mercato anche con queste operazioni tipo BTP Italia? No, lei l'ha detto che ne farà, se non ricordo male, ne dovrebbe farne altre 3 nel 2013, è come ne ha fatte nel 2012. Questa è stata sicuramente una cosa di successo, è un modo per lo Stato per raccogliere fondi con un pubblico diverso, è ovviamente indirizzato ai piccoli risparmiatori, anche se non solo, e quindi fa bene il Tesoro a sfruttare questo canale perché c'è domanda. E l'obiettivo del Tesoro per il 2013 è di fare l'opposto di quello che ha fatto nel 2012. Nel 2012, a causa della crisi, ha dovuto ridurre la durata media delle emissioni di titoli di Stato, cioè ha messo molti più bot che hanno durata breve. Questo perché gli investitori si sentono un po' più fiduciosi a comprare un titolo che tra 6 mesi scade, tra un anno scade, piuttosto che comprare un titolo decennale o trentennale. Questo perché c'era grave incertezza sull'Italia. Nell'ultima parte dell'anno il Tesoro ha iniziato a emettere più titoli a lunga scadenza, tant'è vero che negli ultimi mesi c'è stata anche una forte domanda anche sul mercato secondario, per esempio per i BTP trentennali. E anche perché comprati, hanno dei rendimenti... Perché sono gli unici ormai che hanno rendimenti appetibili, poi sui titoli a lunga scadenza c'è una domanda, diciamo, strutturale da parte delle assicurazioni che hanno bisogno di comprare titoli a lunga scadenza. Ebbene, quest'anno, emettendo più bot, comunque emettendo titoli per breve scadenza rispetto a lunga scadenza, il Tesoro ha accorciato la durata media del debito. Accorciare la durata media del debito è un problema per lo Stato, perché vuol dire che il debito scade molto più in fretta rispetto a un debito di lunga durata. Attualmente è circa 6 anni e mezzo la durata media del debito pubblico italiano. Erano circa 7,2 nel 2010. Ecco, sì. Quindi ora l'obiettivo del Tesoro, visto che le acque allo stato attuale sono un po' più calme sui mercati, è di fare l'esatto opposto, emettere un po' meno bot, quindi titoli a breve scadenza, e cercare di riallungare la durata media del debito pubblico italiano, in modo che lo Stato non si trovi nei prossimi anni ad avere tanti titoli di Stato da rifinanziare e da rimborsare. Altri temi da ricordare per questo 2012 che ci apprestiamo a chiudere al più presto, sempre per quello che riguarda Borsa Italiana: il titolo più scambiato in quest'anno è stata Unicredit, il settore bancario naturalmente è stato nel pieno fermento, anche perché appunto hanno in pancia tanti titoli di Stato, perché con lo spread che così si muoveva a fisarmonica elettronica, le banche facevano di conseguenza in borsa e poi nel 2012 6 offerte pubbliche di acquisto e una sola nuova quotazione, lo dicevo prima, quella di Brunello Cucinelli. Speriamo che l'anno prossimo sia un po' più vivace da ogni punto di vista, non solo da quello obbligazionario. Sì, la speranza è questa. Io ho notato, nel senso, è una cosa abbastanza lampante, che l'anno il 2012 nei mercati finanziari è stato diviso in due in Europa, prima e dopo Mario Draghi, prima e dopo l'intervento della Banca Centrale Europea. Se si guarda anche l'andamento di Piazza Affari, si scopre che dal 1 gennaio al 24 luglio, che è il giorno in cui Draghi a Londra ha annunciato faremo di tutto per salvare l'euro, Piazza Affari perdeva il 18%. Dal 24 di luglio ad oggi ha guadagnato il 32%, il che poi diventa un 8% medio anno. Quindi è la vera svolta dell'Europa. Non a caso il Financial Times ha letto Mario Draghi uomo dell'anno, perché veramente ha dato una svolta sui mercati finanziari, non solo in Italia ma in tutta Europa e anche poi nel mondo. Quindi la speranza è che ora questa grossa impegno della Banca Centrale di fare di tutto per salvare l'euro, poi Mario Draghi l'ha dimostrato nei mesi successivi, dia quella stabilità all'Europa e soprattutto elimini quel grosso problema che ha caratterizzato la prima parte del 2012 e l'ultima parte del 2011, cioè il rischio, la paura degli investitori che ci fosse la distruzione dell'euro. Questo era un grosso problema per paesi come l'Italia, perché ha creato in quei mesi una grossissima fuga di capitali dall'Italia, dalla Spagna e dai paesi più deboli, per un motivo banale, perché se io so che il mio BTP rischia di essere, che lo compro in euro, rischia di essermi rimborsato, ammesso che venga rimborsato in lire, con una lira che si svaluta il 50%, allora non è mio interesse comprare, per un investitore internazionale, tenere BTP che ti vengono consegnati in lire. È molto più interessante comprare un Bund tedesco che magari rende lo 0% o anche sotto lo 0%, però un giorno chissà mi verrà rimborsato in marchi. Lo stesso motivo ha creato una forte fuga di capitali dai depositi delle banche italiane verso le banche tedesche, dalle banche spagnole verso le banche tedesche. Noi abbiamo avuto nella prima parte dell'anno una fuga fortissima di depositi internazionali dalle banche italiane, per un puro motivo di rischio di changeover, diciamo, di break up dell'euro, cioè di distruzione dell'euro. Perché anche qui facciamo finta di un'impresa americana che ha il proprio conto corrente per la filiale italiana a Banca Intesa o una banca italiana. Non ha senso tenere in una banca italiana quando il rischio è che vengano quei soldi convertiti in lire, quindi in valuta debole. Ha molto più senso metterli in marchi tedeschi. Allora, il vero problema della prima parte del 2012 era questo, che gli investitori ragionavano non più come una valuta unica guardando l'euro, ma guardando le valute nazionali di una volta. E questo penalizzava tantissimo paesi come l'Italia, la Spagna, c'era proprio una fuga di capitali. Da quando Mario Draghi ha posto questo punto, ha detto faremo di tutto per salvare l'euro, questo rischio, sebbene non sia svanito, è uno scenario che neanche si prende in considerazione. Esattamente, la Grecia non è mai uscita dall'euro, cosa che si temeva fino a un po' di tempo fa. La politica non ne parla più, anzi mi fa piacere le parole di Schäuble, il ministro tedesco, ha ritrattato nel suo giudizio, ha dato un giudizio positivo sulla Grecia. Questo vuol dire che l'Europa, nonostante tutti i suoi problemi, resterà compatta, e questo è un punto di forza che ha fatto tornare capitali in Italia, in Spagna, un po' meno in Spagna, in Portogallo. Tenete conto, per esempio, i titoli di Stato del Portogallo sono stati i migliori, hanno registrato la migliore performance in assoluto nel 2012, hanno fatto il 56%. Però insomma, ad acquistarli bisognava avere anche un bel pelo sullo stomaco, perché avesse voluto fare queste operazioni. Va bene, c'è chi ci scrive: ma la borsa di Milano lunedì e martedì è aperta, il 31 è chiusa e il 1 gennaio è chiusa, per cui state tranquilli che non vi tormenteremo con le notizie dei mercati finanziari, niente borsa, niente spread lunedì e martedì. E altri ascoltatori invece commentano le prime notizie che abbiamo dato prima: Borsa Italiana ha stilato il bilancio di fine anno sull'andamento degli indici, e c'è un ascoltatore che contesta queste percentuali e mi dice: Debora, non essere patetica, ma mi limito a leggere dei dati. Se c'è un più 8% dall'inizio dell'anno di Piazza Affari, ma ricordava bene Moria Longo poco fa come in realtà c'è stato un calo molto dirompente di Piazza Affari dall'inizio dell'anno fino a luglio, fino alle famose indicazioni di Mario Draghi da Londra, quando disse faremo di tutto per salvare l'euro e compreremo illimitatamente titoli di Stato per naturalmente calmierare questi rendimenti folli che il mercato chiede soprattutto ai paesi periferici. E allora da lì in avanti le borse si sono riprese e molto, per cui poi l'andamento ponderato è che c'è questo più 8% dall'inizio dell'anno ad oggi su Milano, che forse è ancora un po' meno se consideriamo le prestazioni di ieri ed oggi, ma sarà più 7%. Comunque il bilancio è prudentemente positivo. Oggi invece c'è meno 0,8% sul FTSE MIB. Adesso raccontiamo questa giornata di borsa. Ciao Condina, Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E allora, devo combattere un po' con gli ascoltatori che non credono alle percentuali che do. D'altronde, in certi momenti, pure loro avranno visto i loro portafogli investiti in azioni italiane che appunto si erano ridotti al lumicino come rendimenti, io me ne rendo conto. Poi dipende anche dal momento in cui si investe. Comunque, oggi giornata negativa, sempre meno operatori al lavoro e quindi chiaramente anche c'è questo fattore tecnico, forse probabilmente, che così penalizza le quotazioni in questa ultima giornata, CEO. Assolutamente, comunque ti confermo più 8%, abbiamo fatto i calcoli adesso, da inizio anno l'indice delle blue chip di Milano, appunto dei titoli a maggiore capitalizzazione, ha recuperato questa percentuale. Ovviamente oggi sì, ci sono volumi ridotti così come nelle ultime sedute, quindi anche dei dati macroeconomici che diciamo in altri periodi dell'anno avrebbero mosso diciamo con più vigore gli indici, sono passati quasi inosservati. Faccio un esempio: il PMI di Chicago, che si è rafforzato, ha dimostrato, ha segnato un'espansione dell'economia americana, comunque non è stato neanche registrato dalle borse e in particolare da Milano, che ha passato tutto il pomeriggio in negativo perdendo mezzo punto, alla fine ha chiuso a meno 0,82%. Allora andiamo magari adesso un attimo anche alle altre borse: Parigi meno 1,47%, Francoforte meno 0,57%, peraltro vedo che Francoforte, non me lo ricordavo, oggi ha chiuso anticipatamente alle 2,15, quindi come ultima seduta dell'anno per Francoforte, appunto mezzo turno di lavoro. Londra meno 0,44%. E abbiamo Wall Street che in questo momento viaggia in negativo, perché abbiamo ricordato un milione di volte che tutta l'attenzione è proprio concentrata sul dibattito politico per evitare il fiscal cliff. Ne parleremo tra poco con Vittorio D'Arolda. Andiamo ai temi invece di Piazza Affari, cominciando con i migliori titoli di oggi. Chiude bene la seduta Banca Monte dei Paschi, più 0,67%, Luxottica più 0,36%, e c'è attenzione anche su Campari, oggi più 0,06%. In giornata forse avevano fatto anche qualcosa di meglio, CEO. Ci sono notizie su questa società? Ma sì, in giornata erano andate a guadagnare anche più di mezzo punto. Ieri erano andate piuttosto maluccio perché, come sappiamo, Autogrill, Campari, Luxottica sono tutte società che realizzano una buona fetta del fatturato in dollari, e quindi essendo esposte sul dollaro, ieri le forti calo del dollaro l'avevano pagato, perché è chiaro che se il dollaro si deprezza poi viene a erodersi anche il fatturato di queste società. Oggi il dollaro ha guadagnato rispetto all'euro, anche un piccolo rimbalzo, e qui si spiega così il recupero di queste azioni. Per quanto riguarda invece il Monte dei Paschi, che fa più 0,67%, come dicevi giustamente tu, una piccola eccezione rispetto all'andamento oggi delle principali banche che dopo i balzi di ieri hanno subito un po' di realizzi. Intesa ha perso l'1%, anche Unicredito meno 1,07%, insomma comunque stiamo parlando di titoli che nel rally delle ultime settimane avevano beneficiato di molti ordini di acquisto. Andiamo a vedere anche i peggiori: media 7-2%, il Biscione è penalizzato dagli alimenti che il Cavaliere dovrà passare mensilmente alla sua ex consorte, CEO. Ma non so se possa fare un legame di questo genere. Ho fatto un po' un volo pindarico, ma oggi ci ha fatto molto divertire questa notizia, perché oggi pensavamo a questa vita di stenti che la signora Lario dovrà condurre. Vabbè, comunque. C'è sicuramente da registrare l'andamento del titolo, che oggi è il peggiore. Nello stesso giorno in cui è stata diffusa appunto la notizia di questo accordo sull'assegno che verrà corrisposto all'ex moglie dell'ex premier. Certamente la performance di Mediaset per il titolo del Biscione non è una novità, questo è stato un anno nero, è stato l'anno in cui ha chiuso per la prima volta nella storia un trimestre in rosso, è l'anno in cui il titolo ha toccato i minimi storici, e sicuramente il 2013 per il gruppo, così come per i principali gruppi editoriali, sarà un anno molto sfidante. Certo, tra l'altro lì non è neanche un gruppo che paga la disaffezione degli ascoltatori, perché in realtà i livelli di ascolto delle reti Mediaset sono sempre molto alti. Il problema è la pubblicità, anche gli introiti sono nettamente calati. Questo riguarda Mediaset, riguarda anche questo gruppo editoriale come tutti gli altri, c'è un po' tutto il mercato che soffre, quindi evidentemente c'è anche questo da tenere in considerazione. Tra gli altri ribassi, Enel meno 1,81%, Tenaris meno 1,52%, Salvatore Ferragamo meno 1,48%. Tutte le altre banche che tipo di andamento hanno avuto oggi in relazione anche all'asta del Tesoro italiano, di cui abbiamo dato conto? Negativo. L'asta ha avuto buona domanda, i rendimenti sono andati però in leggero aumento rispetto all'ultimo collocamento. Comunque insomma è un collocamento che non si può dire che sia andato male, anzi, perché sono stati venduti titoli per quasi 6 miliardi di euro a dei rendimenti insomma piuttosto buoni. Come dicevo prima, le banche sono state vittime soprattutto di realizzi. Allora, Exor, ritorno ai titoli con il segno più 0,05%, poi in realtà ne vedo solamente 1, 2, 3, 4, 5 di titoli che chiudono positivamente, cioè STM sulla parità e poi Fiat Industrial meno 0,06%, Azimut meno 0,09%, peraltro Azimut forse è il miglior titolo in assoluto del FTSE MIB dall'inizio dell'anno, se non mi ricordo male, ma adesso questo è un ricordo che proprio elargisco agli ascoltatori così improvvisando. Terna meno 0,13%, Mediobanca meno 0,17%, fra i titoli minori ieri abbiamo visto l'Esplua di Gemina, se non mi ricordo male, c'è oggi, è continuato? Oggi sì, oggi Gemina ha guadagnato l'1,5%, ovviamente nulla rispetto a ieri, ma ricordiamo che ha anche fatto oggi, più 30, anche oggi aveva aperto la seduta con una fiammata del insomma superiore al 6%. Qui il tema, i temi sono sempre gli stessi, sicuramente l'adeguamento tarifario per l'aeroporto di Roma, il che significa maggiori introiti garantiti per i prossimi anni, ma c'è anche il tema di una possibile fusione con la controllante Atlantia, fusione che dovrebbe passare ovviamente per un'offerta pubblica, potrebbe essere o di scambio con azioni Atlantia o addirittura insomma d'acquisto con il lancio di un'opera. In entrambi i casi c'è da presumere, anzi è certo che le azioni Gemina verranno valorizzate a premio rispetto al mercato e quindi di qui il fatto che il rally di borsa degli ultimi due giorni. Il miglior titolo in assoluto della giornata è stato Reno De Medici, più 18,9%, il peggiore TAS, meno 6,74%. Abbiamo qualcosa da raccontare su questa società? Eh sì, ieri era stato tra i migliori, aveva fatto un balzo molto significativo a seguito del deciso calo dell'indebitamento legato all'accordo con il sistema bancario. TAS è una società che comunque ha vissuto tempi difficili e oggi quel realizzo di qualcuno che ieri aveva effettuato insomma dei guadagni significativi. Ci ha raggiunto in studio il collega delle Sole 24 Ore, Vittorio Darolde, che saluto intanto. Vittorio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E adesso andiamo al prossimo approfondimento. E allora, come vi anticipavo in apertura, il tema adesso è tutto americano, anche se lo so bene che siete abituati a sentire Vittorio Darolde raccontarci anche invece le vicende greche. Faremo anche un piccolo riferimento alla Grecia alla luce delle novità e delle notizie che vi ho raccontato in apertura e il fatto cioè che il ministro delle finanze tedesco Schäuble abbia detto sul governo greco e sulla capacità appunto di portare avanti le riforme necessarie per mettere a posto i conti. Mi ero sbagliato, quindi un mea culpa sul giudizio, però ci sono anche altre notizie. Vorrei però partire dagli Stati Uniti e dal baratro fiscale da 600 miliardi di euro in cui l'economia statunitense rischia di cadere se repubblicani e democratici non trovano, direi nel giro di poche ore, un accordo, naturalmente per evitare di gettare l'economia americana in questa situazione. Il presidente Obama ha convocato per oggi alla Casa Bianca i leader di maggioranza e minoranza del Congresso ed è l'ennesimo tentativo di trovare un accordo sul piano di riduzione del deficit che deve essere raggiunto a tutti i costi entro il 31 dicembre, se si vuole evitare questo appunto precipizio dal punto di vista fiscale. A che punto siamo nelle trattative, Vittorio? Dunque, le trattative dovrebbero essere in questi termini. Il presidente Barack Obama, che è tornato precipitosamente dalle vacanze, che era appunto alle Hawaii, sta cercando di mettere un piano che era quello di offrire questi sgravi fiscali che, come ricorderete, erano sgravi fiscali che scadono il 31 dicembre ed erano stati nell'era Bush. Questi sgravi fiscali vorrebbe rinnovarli, ma non per tutti, quindi non anche per i grandi, diciamo così, possidenti, ma vorrebbe ridurli, quindi aiutare più la classe media e in qualche modo aumentare la pressione fiscale su chi ha di più. Questo però si scontra contro un'ideologia, soprattutto nel Partito Repubblicano, di quella parte che molto fa riferimento ai Tea Party, che sono assolutamente contrari. Quindi ci sono delle colombe come Bonner, che è il capo appunto della maggioranza repubblicana, perché i repubblicani hanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti e quindi senza il loro consenso non passa questa normativa. Ecco perché è molto importante che all'interno dei repubblicani si trovino un accordo fra di loro, tra quindi la posizione estrema dei Tea Party, che non vogliono assolutamente aumentare le tasse. Questo è il loro punto, cioè non si aumenta la pressione fiscale. Tenete conto che la pressione fiscale in America è assolutamente più bassa di quella europea, quindi avrebbero ampi margini per farlo, ma non lo vogliono fare per una questione ideologica. Invece Obama, spinto naturalmente dal Partito Democratico, soprattutto da quelli che sono stati, diciamo, i suoi sostenitori appunto nella vittoria, vogliono appunto un aumento della pressione fiscale, soprattutto per i più ricchi. Ecco perché lui aveva offerto un rinnovo degli sgravi fiscali per chi ha fino a 250.000 euro, poi l'ha portata a 400.000, e i repubblicani invece sono disposti ad accettare a non rinnovare gli sgravi fiscali per chi ha sopra il milione di dollari. Probabilmente quindi si arriverà a un compromesso puntando sui 500.000 euro, che in qualche modo è la via intermedia tra le richieste repubblicane e le richieste dei democratici. Questo è il possibile compromesso senza il quale però gli USA potrebbero trascinare, ricordiamolo, non l'economia americana in recessione, ma il mondo in recessione, perché c'è un problema fiscale, c'è un problema naturalmente di mercati, perché la borsa, come avete già visto, è già in fase di calo, e naturalmente il dollaro che sta scendendo. E poi il vero problema è che questo, il 2012, è stato l'anno dell'Europa, perché come abbiamo visto a marzo abbiamo fatto la ristrutturazione del debito greco, che è stata la più grande della storia. Poi abbiamo fatto a giugno il nuovo piano per salvare appunto non tanto l'Europa, ma l'Europa, con questo secondo piano, e poi la BCE che è intervenuta dicendo che era pronta a fare tutto quello che serviva. Ecco per cui l'Europa in qualche modo arriva a fine anno in qualche modo con tamponato. Un po' di sospiro di sollievo, ma adesso sono gli Stati Uniti a tornare prepotentemente sotto. Proprio tu nel tuo pezzo di questa mattina sul Sole 24 Ore lo dici con grande chiarezza: come sembrano lontani i tempi in cui Geithner, il segretario al tesoro appunto americano Timothy Geithner, chiedeva incessantemente agli europei di risolvere in fretta la loro crisi dei debiti sovrani. Adesso invece nell'occhio del ciclone ci sono loro. Tra l'altro, sempre Geithner ieri, cercando ancora di stimolare molto fortemente appunto la sensibilità politica per arrivare ad una risoluzione di questo problema, ha lanciato un avvertimento ricordando come lunedì prossimo il debito degli Stati Uniti toccherà il tetto massimo di 16.394 miliardi di dollari. Noi siamo a 2000, quindi questo per dare un po' il senso delle proporzioni. Lo so che noi siamo una nocciolina rispetto agli Stati Uniti, ma è per dare un'idea dei numeri dei quali stiamo parlando. Per cui ore cruciali, quando sapremo secondo te qualcosa in più? Guarda, alle 21 nostre ci dovrebbe essere questo incontro alla Casa Bianca, anche proprio nella sala ovale, tra il presidente appunto Obama e i quattro rappresentanti di maggioranza e minoranza rispettivamente, sia delle due camere, quindi del Congresso riunito. Quindi c'è tutto lo staff, diciamo così, della politica che conta a Washington in questo momento per decidere di uscire da questo impasse. Un impasse che, lo ricordiamo, se non dovesse funzionare, potrebbero trovare anche dei compromessi transitori. Ecco perché Geithner parlava, insomma, di misure transitorie. Loro potrebbero in qualche modo far finta che il tetto che non può essere superato dell'indebitamento, ecco, potrebbe in qualche modo, diciamo, avere ancora un paio di mesi di trattative, di possibilità di utilizzare dei meccanismi ulteriori, quindi avrebbero ancora un piccolo comporto. Il vero problema è che non c'è invece nessuna possibilità sulla questione fiscale. Lì bisogna proprio arrivare, perché sennò scattano automaticamente questi aumenti di imposta che ridurrebbero i consumi, e quindi tracolla il PIL americano, che poggia interamente appunto sulla spesa. 70% del PIL americano è basato sui consumi, e tra parentesi i dati sono positivi, perché ad esempio a dicembre si aspetta un incremento delle vendite di auto. Ricordiamolo, il settore manifatturiero americano dell'auto è stato veramente una grossa sorpresa, un miracolo in qualche modo di Obama, e si prevedono vendite in incremento del 9%, quindi sarebbe una ripresa che invece sta in qualche modo partendo, rimettendosi in mostra. Sarebbe veramente un disastro. Allora, ci manca un minuto di tempo prima di salutarci, Vittorio, però tu so che hai scritto di Stati Uniti in questi giorni, ma il tuo grande amore è ancora la Grecia. Due notizie della giornata: la banca centrale che ha detto quali sono le esigenze finanziarie per ricapitalizzare le banche greche, le quattro più importanti appunto in crisi. Servono 40,5 miliardi di euro, un po' meno di quanto si era inizialmente stimato. E poi Schäuble che dice su Samaras: ho sbagliato. Ti do un po' meno di un minuto di tempo. Sì, la prima notizia è naturalmente positiva, perché quando hanno fatto il piano, quest'anno è stato il piano appunto dell'Europa, che ha cercato faticosamente con lo ISM, con il via libera della Corte Costituzionale tedesca, con il rinnovo, di togliere quel circolo vizioso tra aiuti agli stati e aiuti alle banche, che poi faticosamente a giugno e poi a dicembre è stato appunto finalmente fatto. E loro cosa avevano detto? Tutto bene, 50 miliardi sono sufficienti. Invece adesso ne basterebbero 40, il che sembra ancora un'enormità, ma visto che hanno fatto la restituzione di tutti i bond e hanno perso, naturalmente questo è già sufficiente. Se non ripartono le banche, naturalmente non riparte come al solito l'economia. E poi una piccola quindi vittoria emotiva, insomma. E poi questo naturalmente il ministro tedesco che fa gli elogi al primo ministro greco, beh, insomma, fa notizia. Perché, certo, insomma, dopo che ci ha bastonato tutti in ogni modo, quest'anno almeno ci dà questo il augurio di buon anno. Sì, si vede che è più buono fino grazie, anno. Per fortuna. Grazie, grazie Vittorio D'Arolde, a tutti buon anno da Deborah Rosciani.